Storie, tiki plin, giornalisti, tiki flash, frequentatori della fortezza. Preparano i loro cocktail mescolando una certa quantità di informazioni. Avvicina il traffico! E ottenendo così una certa serie di isotopi. Atti a visualizzare la realtà moderna. Neo! No, ragazzi, Rio. Rio! Se potessi prendere il volo delle sei, se potessi avere le ali, volerei laggiù da te, lo sai perché. Metto tacchi a spillo per conquistare te, molo tutto e scappo per correre da te, laggiù da te, lo sai perché. Perché vivo a Rio, città delle mille lucciole, da Rio, città delle mille maschere, a me non importa niente di te, tutta quella gente, ho del carnevale le città. A me non importa niente, ma so che rapidamente vivo il carnevale, le città. Siamo arrivati a Rio, città delle mie lucciole, città delle mie maschere, a Rio. Concorro per il fiato, raggiungo il babyche. Ma non sei venuto a prendermi, ma poi e sai che c'è che poi. Perché vivo a Rio, città delle mille lucciole, a Rio, città delle mille maschere, a me non importa niente di te, tutta quella gente, ho del carnevale le città, a me non importa niente, ma so che rapidamente io vivo il carnevale le città, a Rio, a Rio, yeah. Pom, chiqui, pom, chiqui, pom, pom, pom, chiqui, pom, chiqui, pom, pom, pom. Grazie.